stato, ho constatato forme d'onda negative dai segnali radio della gente libera, dove l'anarchia impera ma si rivela una forma effimera di vita e di governo, dove chi vuole pote ciò che vuole, chi non vuole può andare anche all'inferno. L'uguaglianza esiste finché non vince il più forte, il macista di turno è il regista di vita e morte. Nessuno ti dice quando, come, cosa devi fare, non verranno a giudicarti se uccidi o se vai a rubare. Era la tua casa, oh scusa, te l'ho bruciata, non puoi farmi causa, non c'è proprietà privata. Se per un verso ciò va bene, per l'altro collide con l'opinione di chi crede nella giustizia e dei diritti delle persone. Entrambi lesi da una libertà vissuta male, dove vero, falso, sano, marcio sono lo stesso sale che brucia sulle ferite che vengono a crearsi. L'utopia va a frantumarsi quando riesce a realizzarsi. Anch'io sono incazzato con l'imputato sistema ladro. Il sistema dà, il sistema toglie, ma si può sempre contrastarlo. Se non c'è un sistema non sai nemmeno chi è il tuo nemico, e brancoli nel buio con un problema legato al dito. La volevi l'anarchia, tipo, adesso te la tieni. Come non vuoi, pensavo che del sistema ne avessi i coglioni pieni. Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è. E se non c'è un sistema che crea il problema, allora il problema dov'è? Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è. Ma se manca un sistema di soluzioni al problema, allora la soluzione dov'è? Allora, senti qua. Al di là del sistema non c'è più il sistema, né l'opposto. Lì vive l'individuo sociale che si esprime in modo naturale e onesto con se stesso. Fotti il sistema, butta all'aria ogni schema. Non metodo come metodo, non limite come limite, come il piccolo drago di San Francisco diceva. Vivi in libertà, un'esistenza piena, rispetta te stesso ed ogni tuo simile. Passo lungo, braccia aperte e terzo occhio vigile. Regole? A cosa giovano se l'individuo è consapevole e le coscienze si rinnovano? Libertà e rispetto per esprimersi nella forza e nell'amore, sciogliendo i condizionamenti che la mente impone. L'umana condizione non è assoluta e ogni costrizione è l'involuzione, poiché l'evoluzione la computa o la trasmuta. Ma ogni rivoluzione ha per effetto delusione, poiché la causa ne ha gestione, gente sprovveduta. Purtroppo è sempre successo così. Ciò nonostante essa rivela le tante falle del sistema in voga, è il rematore incazzato che picchia il timoniere, ma fa scuffiare la piroga e affoga. Ma sconvolge e mette in discussione il dubbio equilibrio tra comando ed equipaggio, e chissà che i sostituti dal suo esempio preceduti non cambino in qualche modo l'indirizzo del viaggio. Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è. E se non c'è un sistema che crea il problema, allora il problema dov'è? Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è. Ma se manca un sistema di soluzioni al problema, allora la soluzione dov'è? Ma al di là del sistema non c'è più il sistema nell'opposto, ma piuttosto la consapevolezza che ogni soluzione di problema ha un costo. Ogni passo fatto in qualunque direzione, come se non modificasse affatto la nostra posizione. Non c'è attacco, non c'è attacco né difesa, né ogni difesa. Condizione morale normale è trascesa. Al di là del bene e del male, al di là del sistema, al di là della mente, al di là di noi stessi, connessi completamente, senza complessi ai recessi dei nostri processi, in un'innocenza matura di chissà che cos'è la libertà e ne ha cura, di chissà che senza rispetto essa non dura, e che senza libertà e rispetto diventa paura. Paura. Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è. E se non c'è un sistema che crea il problema, allora il problema dov'è? Al di là del sistema non c'è problema, perché sistema non c'è.